Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento della nostra settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben ritrovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo di una persona defunta e soprattutto non tanto di lei in quanto tale, ma della vicenda che ad essa è collegata. Nell'eredità ci sono appunto le cose che la persona lascia dal punto di vista materiale, diciamo spirituale, possono esserci anche dei debiti e dei conti da pagare. Sì, Mirko, questa volta raccontiamo una storia abbastanza incredibile che di un pensionato che si è rivolto all'Adico. Ricordiamo che l'Adico ha uno sportello speciale denominato Testamento e Successioni, che qualche giorno fa ha ricevuto per effetto di un decesso di un parente un conguaglio di oltre 32.000 euro di bolletta. È un conguaglio che racchiude e ricalcola un po' quelli che sono stati dei consumi effettuati nel periodo 2007-2014, ma che certamente, come hai detto te, vogliamo un attimo focalizzarci su quelli che sono un po' anche i rischi che a volte accettare un'eredità potrebbe comportare a ciascuno di noi. Certo è che nel caso specifico la persona, fortunatamente, al di là dopo di quella che è tutta la vicenda, ha deciso, tramite anche il nostro sportello dell'Adico, di accettare l'eredità con beneficio di inventario, per cui prima di accettarla appunto sta cercando di capire tutto quello che è successo, ma non significa comunque che questa vicenda rimane sempre una vicenda incredibile. Appunto, è arrivato questo conto totale, erano effettivamente soldi non pagati, perché questa è la prima cosa che va chiarita. Vedi, Mirko, innanzitutto quando accadono queste cose scopriamo sempre che le persone hanno sempre pagato regolarmente all'incirca nel bene e nel male le bollette. Se non le hanno pagate è perché scopriamo che magari da un anno l'ente, il fornitore, in questo caso non le ha mai inviate a casa, ed è questo veramente uno dei casi più frequenti che ci capita avere a che fare con queste società che normalmente mandano sempre queste bollette stratosferiche e magari scopriamo che appunto nessuno ha mai fatto una lettura effettiva, ma contestualmente nessuno ha mai mandato neanche una bolletta su quelli che sono i consumi stimati. Per quanto riguarda la vicenda, innanzitutto dobbiamo dire che Adico subito ha contestato subito l'importo, perché bisogna ricordare che innanzitutto l'ente non può richiedere bollette retroattive rispetto ai 5 anni dalla data con cui si sollecita un pagamento, per cui già è il periodo 2007-2009 e dobbiamo cancellarlo. Poi sarà certamente il lavoro dei nostri uffici, dei nostri esperti, verificare sulla base di quelli che sono i consumi medi che questa persona quando arriva ha pagato, valutare se l'importo può essere ragionevole o meno, ma certamente ci saranno da fare tutta una serie di verifiche, dal contatore ai consumi e quant'altro, e anche al modo con cui si è data questa cifra, perché a nostro avviso ci sono parecchie cose che come sempre quando capitano queste cose già subito balzano all'occhio e non tornano. È il meccanismo dei conguagli, no? Anche in condizioni normali ci si trova a pagare una volta di più, poi la bolletta successiva di meno, poi c'è il conguaglio, ma in realtà non si tratta mai del consumo effettivo che tu hai fatto in quel periodo, giusto? È un po' questo il problema. Sì, innanzitutto bisogna dire che noi quando capitano queste vicende puntiamo sempre il riflettore su quello che è un vuoto legislativo che oggi permette ai fornitori di poter ricalcolare quello che sono anche i pagamenti effettuati fino ad oggi indietro di 5 anni. Bisogna che arriviamo a costringere il sistema a prevedere una legge che obblighi almeno i gestori una volta all'anno a trovare il modo e a fare una lettura reale. Non è pensabile che una persona, sulla base di quelli che sono tanti metodi di lavoro sbagliati, effettivi, stimati, mando, non mando, bollette che non arrivano, eccetera, poi un giorno possa svegliarsi e ricalcolarti tutto rispetto a quello che sono i pagamenti effettuati fino a 5 anni fa, anche per effetto di quelle che sono le fluttuazioni del mercato che molte volte lo stesso gestore non adegua rispetto all'andamento. Però certo è che dobbiamo anche pensare che lo stesso consumatore non può, quando non arriva nelle bollette, aspettare o non porsi il problema, ma attivarsi subito, perché poi veramente capitano anche casi in cui ci si trova con la debita in banca prima che per esempio ci possa arrivare il cartaceo, e a volte questo può creare dei problemi. Nel caso del signore, l'ascoltatore comunque sa che l'Adico normalmente, quando accadono queste cose, blocca subito il pagamento, perché l'iter è quella di contestare subito tutta la vicenda e non procede a nessun adempimento fin tanto che non si giunga a una risoluzione della controversia. Come detto, nel caso del signore dobbiamo eliminare 2 anni di pagamenti richiesti e poi valutare tutto quello che sono le composizioni delle voci e arrivare a quella che può essere una cifra, insomma, che al detto dei nostri esperti può essere ragionevole, non certamente questo importo qui. Stiamo parlando appunto del caso di un'eredità, lo dicevi, c'è sempre la possibilità di accettare l'eredità con beneficio di inventario, perché appunto c'è il rischio di trovarsi dentro anche dei valori negativi. Cosa è consigliabile fare? Ecco, giustamente Mirko, è sempre consigliabile accettare l'eredità con benefici di inventario, perché altrimenti quando si accetta oneri e onori. Quindi nel caso specifico gli eredi hanno deciso di farlo con beneficio di inventario, ovvero fare un censimento un po' di tutte quelle che sono i valori, i debiti, i crediti che ci sono in gioco, perché poi se certamente i creditori, i debiti sono maggiori di quelli che sono il valore, il patrimonio di tutto, tutto il materiale, i mobili, i soldi che si può ereditare, è meglio lasciare perdere e utilizzare quello che è il valore per andare a copertura del debito e il resto che si ottengano. Diversamente si può accettare, come avviene quasi sempre nei casi, e non certamente ci si può trovare e non ci si deve trovare in queste situazioni. Ecco, comunque non si è stati, sono sempre a disposizione, noi abbiamo uno sportello che serve un po' le persone anche per queste vicende, perché per fortuna il signore prima di accettare è stato abbastanza cauto e si è fidato dei nostri esperti, perché altrimenti oggi non saremmo qui certamente a ragionare in queste condizioni. Ricordiamo allora sul sito associazionedifesaconsumatori.it l'apposita sezione dedicata ai testamenti. Noi per oggi ci lasciamo qui, ma la settimana prossima torniamo puntualmente con altri due argomenti. Carlo Garofolini, presidente Adico, grazie e buona giornata. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.